A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Un evidente calo atletico che si era già manifestato contro la Spagna e un errore di Chiellini sono costati all'Italia questa vittoria che avrebbe strameritato peraltro sul piano dell'iniziativa, delle occasioni, anche della personalità per più di un tempo. E così adesso gli azzurri molto semplicemente non sono più padroni del proprio destino, perché dipendono dalla sportività della Spagna, ma anche da una vittoria contro l'Irlanda che sulla carta sembra facile, ma non è poi detto lo sia davvero per una nazionale che non sa più vincere. Allora, per l'Italia è aperta, infatti, e qui attacco con le statistiche di Franco Piantanide, è aperta una striscia senza vittorie che è la più lunga della storia tra mondiali ed europei. 5 pareggi e una sconfitta, e cioè 2008 europei 0-0 con la Spagna, quindi pareggio, poi eliminazione ai rigori. 2010 ai mondiali in Sudafrica con Lippi, 2 pareggi e una sconfitta. 2012, 2 pareggi entrambi per 1-1. Insomma, dire che sia uno score brillante, quello di questo ciclo storico italiano, certamente non si può. Altre curiosità. Pirlo con quella magnifica punizione sale a quota 10 gol in azzurro, avendo tra l'altro timbrato, cioè avendo segnato sia nei mondiali 2006 che nell'Europeo 2008 che adesso nel 2012. È il primo gol su punizione di un italiano agli europei addirittura dal 1968, da un gol di Domenghini su punizione indiretta che permise all'Italia di pareggiare il vantaggio jugoslavo di Zajc. E tra l'altro Pirlo è anche il primo giocatore italiano a segnare in due edizioni diverse degli europei e anche questo è un piccolo primato amaro in una giornata così. Qualche commento? Beh, intanto l'assunzione di responsabilità di Chiellini su quell'errore di posizione. Era una situazione in cui era un po' troppo stretto. E la palla è arrivata lunga, è stato poi insomma bravo lui a stoppare e segnare, ma sicuramente doveva essere un po' più vicino. Vabbè, ma fa parte del gioco a questi livelli, ogni errore ti puniscono, insomma era stata alla fine così anche con la Spagna, dove magari avevano avuto qualche occasione in più alla fine, ma fino al gol non avevano creato tanto. E sapevamo che loro erano molto bravi in queste situazioni di cross, che cercavano ripetutamente. E eravamo stati bravi a concedere poco, poi purtroppo ci siamo abbassati e sono capitate un po' troppe occasioni e, insomma, stavolta avevo sbagliato un po' la posizione iniziale io. Ma l'Irlanda non doveva essere la sorpresa dell'europeo? Domanda Luca da Modena, con uno degli sms già arrivati. Sì, in teoria sì. E poi invece Luca non è andata a quel modo. L'Irlanda è l'unica squadra già certamente eliminata, anche se poi di fatto lo è pure l'Olanda, ma insomma l'Olanda qualche margine l'ha ancora, in teoria l'Irlanda no. Trapattoni ha dimostrato essere un grande allenatore per il lavoro fatto, averla portato agli europei è già un gran merito, ma sì, questo in fondo è quello che parlano, è quello che pensano gli irlandesi. Però è strana questo crollo difensivo, perché, e qui ritorno ai numeri statistici, l'Irlanda del Trap aveva subito 7 gol in 10 partite di qualificazione e quindi era stata la difesa il punto forte della sua impresa, perché impresa era stata qualificarsi agli europei. 7 gol in 10 partite, qui altrettanti li ha presi in 2 partite. E va bene che gli avversari si chiamavano Croazia e Spagna, soprattutto la Spagna, ma insomma sono tanti. Non solo, l'Irlanda dà l'impressione di entrare in campo sempre leggermente distratta, no? Perché ha preso gol sia dalla Croazia che dalla Spagna agli inizi dei due tempi, al terzo minuto e al quarto minuto con la Croazia, primo e secondo tempo, al quarto minuto e al quarto minuto con la Spagna, sia nel primo tempo che nel secondo. Un forte rammarico, scrive una lettera ufficiale all'UEFA, alla Federcalcio, per i fischi dei tifosi croati all'inno nazionale italiano. E purtroppo sì, questi europei dal punto di vista dell'educazione sportiva del pubblico non stanno certamente segnalandosi in maniera positiva. Croati, d'altra parte, dato che ormai si parla apertamente di insomma, il leitmotiv del nostro europeo è diventato è diventato il biscotto o la paura del biscotto. Corluca, uno dei protagonisti della partita di ieri, ha liquidato questi discorsi dicendo: mi sembra che siano altri ad avere problemi di partite truccate, e quindi che Buffon guardi nel suo orto, perché gli avevano riportato alcune dichiarazioni di Buffon che diceva no, non credo a questa eventualità. No. Buffon ha cambiato opinione un po' di volte in questi anni, e uno di questi giorni magari facciamo un riassunto vocale delle sue acrobazie verbali a proposito di feriti, di morti, di lealtà sportiva, eccetera eccetera, uno di sti giorni. Dai, adesso abbiamo altro da ascoltare. Per esempio abbiamo questo vertice italo-francese con Hollande e con Mario Monti, che stava il premier, che stava parlando, e a un certo punto si sente un boato, perché sono le 18:40 e entra la punizione di Pirlo. Sentite questo esilarante momento. Io sono molto fiducioso e ancora più fiducioso dopo lo scambio che abbiamo avuto oggi, che Francia e Italia daranno il massimo contributo. È in corso una partita di calcio, signor Presidente, daranno il massimo contributo allo sviluppo solido, armonioso della nostra casa comune europea. È fantastico, è davvero il professore che sta parlando al preside o comunque al consiglio d'istituto nella riunione di fine anno, e si sentono i ragazzacci o i ragazzotti sullo sfondo che esplodono, e allora il bravo professore comunque non cambia tono e si rivolge al preside o comunque all'ospite per spiegare che cosa sta accadendo. Che cosa dice oggi di Torres? Domanda Massimo. Io continuo a sostenere che uno dei più grandi bluff del nuovo millennio calcistico. In che senso? Bisogna sempre intendersi sul valore di partenza, cioè Torres è un giocatore che è stato valutato e pagato decine e decine di milioni di euro. Non vorrei esagerare, ma credo che il Chelsea l'abbia pagato intorno ai 60 o 65, cioè l'ha valutato uno sproposito pazzesco. Allora, a quelle cifre per me Torres rimane un bluff, no, non un bluff, rimane un giocatore nettamente sopravvalutato. Poi è chiaro che se parliamo di qualità del giocatore, quelle sono innegabili, ma erano molte di più quando questo giocatore si è affermato nell'Atletico Madrid. Allora sì, era un grande centravanti che poi si è, anziché avere un'evoluzione, ha avuto un'involuzione, si è leggermente incartato. Questo non significa che non sia più capace di far gol, ieri sera ne ha segnati due, diciamo non impossibili, contro la difesa irlandese. Io credo che anche i nostri attaccanti, che pure stanno facendo di tutto per non metterla dentro, contro gli irlandesi si troveranno un po' meglio, o almeno ce lo auguriamo tutti. Tra poco i vostri interventi, immagino anche e soprattutto, perché insomma è sempre l'allenatore, alla fine è sempre colpa degli allenatori, no, mi pare, per discutere magari, immagino, sui cambi di Prandelli. Walter Crotone scrive, dice: ma se Spagna e Croazia avessero pareggiato, l'Italia vince per 4-0, non passeremo noi, eccetera. No, allora, una volta per tutte, la formula di questo europeo, ma anche dei mondiali comunque, la formula dei gironi prevede che in caso di arrivo a pari punti di tre squadre scatti una classifica avulsa che ha come primo parametro i confronti diretti. I confronti diretti saranno tutti in parità, perché è chiaro che si sta parlando dell'ipotesi biscuit, sarebbero tutti in parità. Allora a quel punto scatta il numero di gol segnati da ciascuna squadra nell'ambito, all'interno di questi confronti diretti. E allora l'Italia ne ha segnato uno contro la Croazia e uno contro la Spagna. Se la Spagna e la Croazia, giocando tra loro, ne segnano due, non se ne parla più. Qualsiasi punteggio riesca ad ottenere l'Italia contro l'Irlanda. Ho appena assistito, scrive Alfonso Di Carlo, a un'intervista a Rai nella penosa trasmissione notturna, in cui un giornalista ha chiesto a Casillas se la Spagna non fosse orientata al biscotto. Testuale, nella prossima partita con la Croazia, il portiere, campione d'Europa e del mondo in carica, è stato fin troppo gentile e ha risposto: giochiamo solo per la vittoria, la vergogna non ha limite. Beh, la vergogna o l'aggressività, insomma, ci vuole anche del fegato a fare una domanda del genere a Casillas. A Casillas comunque ha un a un giocatore, direi, e soprattutto a un giocatore non italiano di questi tempi, no? Perché noi ne abbiamo alcuni invece in patria, per fortuna, non esportati al momento, a cui queste domande sì, possono risultare fastidiose, però un fondamento, come è noto, purtroppo potrebbero averlo. Un commento sul pareggio dell'Italia molto autorevole, quello di Fabio Capello. Per quanto riguarda l'Italia, è stata una bella partita nel primo tempo, ha giocato un ottimo calcio, molto buono, ha pressato un po' meno rispetto alla partita che l'ho vista giocare contro la Spagna, dove ha giocato probabilmente la più bella partita di questi ultimi periodi. Contro la Croazia nel secondo tempo è un po' calata, non avevano più la brillantezza della partita che hanno giocato con la Spagna. Abbiamo subito dei contropiedi, la Croazia è cresciuta e il gol purtroppo è venuto da un errore. Strano che Chiellini si sia fatto sorprendere alle spalle, perché normalmente guarda sempre dove è l'uomo, questa volta se l'è perso e purtroppo quando si gioca in nazionale basta commettere il minimo errore e si è condannati. Già, questo temo proprio che sia così, come sempre l'analisi delle partite da parte di Capello, soprattutto quando non è parte in causa lui, perché insomma è evidentemente più facile, insomma stiamo parlando veramente di un grande intenditore e ci mancherebbe, ma anche di uno che poi le cose te le spiega chiare, no? in maniera essenziale, sintetica, ma senza proprio dandoti la sensazione dell'opinione forte, autorevole e direi anche in un certo senso definitiva. Parliamo di quotisti, no, sentiamo ancora Capello a proposito di accordo, tacito accordo, Croazia-Spagna. Credo che soprattutto la Spagna farà di tutto per vincere la partita, perché le vittorie portano morale, perché i giocatori spagnoli che stanno giocando poco avranno voglia di fare un buon risultato. Fra l'altro penso che Vicente del Bosque metterà in campo la miglior formazione. Non si possono prendere i rischi mai. Quando pensi che il pareggio basta, è l'errore più grande che una possa fare. Va in campo rilassato, va in campo non determinato. Altra diagnosi. Esatto, dunque arriva un po' di conforto dai quotisti SNAI. Perché? Perché secondo loro la partita tra Croazia e Spagna sarà vera, con gli spagnoli che giocheranno per vincere senza pensare a calcoli vari. Tant'è vero che il segno 2, la partita è Croazia-Spagna, il segno 2, quindi la vittoria della Spagna, è quotato 1,75, bassissimo. Il pareggio è quotato a 2,60, la vittoria della Croazia a 8,50. Quindi, secondo i quotisti SNAI, non dovrebbe esserci traccia di accordo. Però c'è una cautela da parte loro, ed è una cautela molto significativa. Mentre non so, la vittoria della Spagna 1-0 è a 7, mentre il 2-0 è a 7,50, mentre l'1-1 è quotato a 6, insomma, mentre sono quote tutte un po' altine, il 2-2, che in genere è un punteggio che ha una quotazione molto alta e che frutta molti soldi, ecco, il 2-2 è quotato a 5,50. Quindi loro hanno fatto delle quote, al momento almeno, delle quote regolari. Da partita vera per i segni in uscita, ma si sono cautelati col 2-2 molto basso a 5,50. Roberto Piacenza, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Spenga la radio, che probabilmente lei non sarà d'accordo, ma spenga la radio per cortesia, Roberto. Per portare Zaccherini e farlo giocare in quel modo lì, non era meglio al limite portare Pepe al posto di Zaccherini? Sono sempre gli assenti hanno sempre ragione, no? In nazionale, sì, cioè quando ci sono queste grandi manifestazioni, può essere, tutto vale, vale ogni soluzione. Io più che da Zaccherini sono un po' deluso da Maggio. Io trovo che Zaccherini dalla sua parte sì, poteva forse dare una mano un pochino più robusta a Chiellini in occasione di quella, del gol, di quella chiusura, però non può neanche pensare che Chiellini sbagli così completamente posizione e si faccia scavalcare da quel traversone. Per il resto mi pare invece che Giaccherini la sua partita l'abbia fatta e che invece dall'altra parte Maggio no, né sul piano della spinta e nemmeno su quello del contenimento, insomma, perché quel croato che ha messo dentro il cross decisivo, tra l'altro molto bello, eccetera, beh, insomma, non era il primo, no? che provava a mettere a quella maniera, e avendo davanti due giocatori di fisico, due arieti, mi sembrava l'unico vero rifornimento pericoloso, quindi sia Maggio che magari Bonucci in seconda battuta un po' più di attenzione potevano prestarla. C'è in corso una conferenza stampa di Prandelli, in estrema sintesi sta dicendo che bisogna portare più uomini in area di rigore, che in realtà non c'è stato calo fisico, perché se ti abbassi e pensi a gestire il risultato può bastare un cross, eccetera. Ora, che non c'è stato calo fisico lo voglio sentire dalla sua voce, però vera, perché ieri ha detto il contrario, ha detto c'è calo fisico, al momento duriamo un'ora, quindi non riesco a capire. Gli ha chiesto se ha rimpianti per una formula poco provata, cioè la difesa 3, e lui dice non ho né energia né tempo per i rimpianti. Non dobbiamo assolutamente ricordare quello che accadde 8 anni fa, Euro 2004, e quindi questo è un modo per non avere alibi preventivi e quindi pensare a giocare la partita. E poi ha detto il cambio di Balotelli è semplice, non ci dava più profondità. E anche qui secondo me si può discretamente discutere. Dopodiché ha annunciato cambieremo 3-4 giocatori, e questo era nell'aria sin da ieri, perché anche per ragioni fisiche questa è una squadra che ha bisogno di più freschezza, di più corse e possibilmente di più durata. Strinic, quel giocatore, no? Il giocatore da cui è partito il pallone decisivo, ha crossato da quella posizione 7 volte. Ora, 6 volte l'han presa di testa Occhiellini o Bonucci, un'uscita di Buffon, eccetera, altre volte, pur avendo questo un bel sinistro morbido. Però insomma non è riuscito, le altre volte non è riuscito a mirare la testa o i piedi. Qui invece, in quel caso, l'ha messa giusta. Giovanni Milano, buongiorno. Sì, salve. Volevo solo dire due cose. La prima l'ha detto lei su Maggio. Non è che ho visto tante partite del Napoli, però cioè, sinceramente mi ha un po' deluso. E poi secondo me le coppie d'attacco, secondo me sbaglia le coppie d'attacco, nel senso che secondo me Giovinco è l'unico attaccante che salta sempre l'uomo, e però cioè, a parte che lo fa giocare poco, ma poi con Di Natale, io lo vedrei bene con Balotelli, niente, tutto qua, grazie. Grazie a lei Giovanni. Salve, se la Spagna perde e l'Italia vince, che succede? Domanda Franco. È molto semplice, che la Spagna va a casa e che passa il turno la Croazia come prima del girone, perché a quel punto avrebbe battuto la Spagna e l'Italia come seconda. Non è difficile, avrebbe detto il Paron. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Senta, una cortesia, io sinceramente non ne posso più di come siamo noi italiani. Cioè, alla fine ci stiamo abbarbicando sopra questa potenziale combin, quando nella realtà dei fatti siamo solo ed esclusivamente noi i responsabili del nostro destino. Cioè, per favore, basta, mandiamo un messaggio diverso. Non se ne può veramente più di avere questo approccio da piangina, come diciamo noi qua a Milano. Basta, per favore, cioè, cerchiamo di tirare fuori un po' di rabbia, ma un po' di serietà da parte di tutti. Cioè, non è avvilente questo, mi creda. Certo. La ringrazio e l'ascolto per ma sono io certo Andrea, io credo che quando uno è rimasto scottato una volta come l'Italia nel 2004, beh, insomma, poi quella cicatrice ce l'abbia, no? E quindi la senta mordere, la senta pungere, se si ricrea il clima potenziale di quella volta. Quindi questa secondo me è un'attenuante che va concessa. Dopodiché che in Italia sia sempre colpa degli altri, non sia mai colpa tua, è normale. Cioè, adesso è colpa della Merkel che non finanzia, faccio per dire, non è colpa di chi ha dissestato le proprie economie, no? È colpa della Merkel che non ti aiuta, e qui evidentemente non sarà colpa dell'Italia che ha pareggiato contro la Croazia, che ha regalato alla Croazia una partita che aveva già vinto, no, cioè, sarà colpa di quegli altri che magari per caso faranno 2-2, se davvero lo faranno, adesso poi questo lo vediamo. Lucio, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Due semplici considerazioni. La prima è che, e non sono un pro Balotelli, però bisogna anche dire che con la Spagna aveva due campioni del mondo che raddoppiavano sempre la marcatura su di lui, prima cosa. Seconda cosa, il gol di Chiellini, io ho notato Buffon, non esce mai. Su tutti i traversoni andiamo in sofferenza. Il portiere non esce mai, Buffon. È fuori, essere... è fuori all'area piccola, Lucio. Non, che senso ha uscire su quel pallone a difesa schierata? Non c'è nessuna ragione. Cioè non ci può arrivare, il traversone non è molle, un traversone è teso, arriva di lontano ma è teso. Uscire sarebbe stato un grossissimo rischio. E soprattutto c'è Chiellini, e lì è giusto in traiettoria, è soltanto due passi avanti, ma questo Buffon non lo può sapere. E comunque quando si rendesse conto dell'errore per provare a uscire non fa più a tempo. No. Secondo me Buffon non c'entra veramente nulla, c'entra soltanto Chiellini, come lui stesso ha ammesso e come mi pare che tutti abbiano, salvo fantasiose ricostruzioni come queste, come mi sembra che tutti abbiano visto. Capello, per dire uno che di pallone non se ne intende, l'avrà sentito prima, no? Non ha dubbi su chi abbia colpa, poi mica per crocifiggere nessuno, ma semplicemente per dire chi ha sbagliato, di nuovo citando l'immortale Paron. Oh, dunque, Prandelli severo con Balotelli. Ho sentito, approfittato dell'intervallo per sentire un pezzetto di conferenza stampa, ha detto testualmente: per 15 minuti del secondo tempo mi sono sgolato con Balotelli, o tieni palla o dai profondità, gli voglio bene e gli devo dire la verità. Lo ha detto Prandelli spiegando la situazione del numero 9 ieri: ha grandi potenzialità ma deve crescere, serve cattiveria e attenzione, questo è il cambio che deve fare. E va bene, chissà se erano i cambi che doveva fare quelli che ha fatto Prandelli, invece, per parafrasare questo suo dire. Ma insomma, qualche perplessità c'è. Io sinceramente non ho molto capito Montolivo. Non credo nemmeno che Motta meritasse di uscire, aveva preso un colpo, sì, ma non era morto. Non lo so, cioè, forse bisogna essere lì, bisogna, certamente lui dalla panchina li vede assai più da vicino, ha altri parametri, altre valutazioni. Ma se rinunci alla qualità superiore di Motta, allora secondo me punti sul dinamismo di Nocerino, non su una via di mezzo come è il Montolivo di questi tempi. E poi perché Balotelli prima e non Cassano prima, che invece, pur avendo giocato un eccellente primo tempo, sembrava un po' più sulle gambe. Vabbè. Salvatore Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'intervento al signor conduttore Garanzini. Uh-huh. Volevo fare una mia supposizione. Se sicuramente spero che la Spagna vince contro la Croazia, ci fa il favore di farci passare il turno, e comunque spero che si parli meno peggio su Balotelli, di aiutarlo un po' anche psicologicamente, perché penso che abbia bisogno questo di avere un po' le idee chiare sto ragazzo per poter sfondare. Grazie, scusi, disturbo. Scusi che cosa? Sta scherzando. Grazie a lei. Ripeto, 3-4 cambi ha già annunciato Prandelli, non ha detto quali evidentemente, ha annunciato Prandelli contro l'Irlanda. Abbiamo tempo da qui a lunedì per indovinarli, però sarebbe divertente indovinarli subito, e non sarà semplicissimo. Stanno continuando ad arrivare molte mail, molti sms, insomma molti interventi su questa partita e sui cambi. Non so, io sentirei forse, però darei c'è Franco Piantanida che si diverte a isolare qualche frammento di telecronache o di interventi post partita, di quelli particolarmente esilaranti. Allora, insomma, la tentazione è abbastanza forte. Sentiamo il ritratto del goleador croato fatto dal telecronista Gentili nel primo tempo. Ancora la squadra croata con il capitano Serna, pesca e trova Strinic, contrastato da Maggio, perde il passo Maggio, Strinic, palla in mezzo, pericolo, Mandžukić è fortissimo di testa, con i piedi non molto. Con i piedi non molto nel primo tempo, perché poi nel secondo Quella palla, certo, l'errore di Chiellini è molto grave, ma ha fatto la scelta giusta comunque, l'ha controllata a seguire, non proprio come avrebbe fatto Messi o il miglior Cristiano Ronaldo, ma insomma l'ha messa giù civilmente, poi l'ha picchiata sul palo con violenza persino eccessiva, che ha rischiato di sbagliarla se è per quello. E poi arriviamo al secondo tempo e arriviamo a questo gol che... al gol croato, che è stato preceduto da un'analisi clamorosamente smentita dai fatti, e da che fatto purtroppo, sentiamo. Anche perché Pranić è un gran tiratore dalla distanza, possiede un bel tiro secco, preciso, magari per trovare la soluzione da lontano, visto che la Croazia non riesce ad entrare, ci prova adesso, palla d'oro, palo gol, Mandžukić. Mandžukić, errore in marcatura al 26esimo, fatale, ed è sempre lui, Mandžukić, il cannoniere croato, 1-1, mentre Brandellin, coraggio ai suoi, Italia che ha accusato il colpo, Alessandro Antinelli. Pronto? Adesso Brandellin chiede subito ai suoi ragazzi. Sì, meno male che non riusciva ad entrare, no? Avete sentito? Non, la Croazia non riesce mai ad entrare, alla faccia, pensate se ci riusciva ad entrare come finiva la partita. Giovanni Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiederle due cose. Secondo lei, siccome, cioè, secondo me, centrocampisti in Italia, vabbè, oramai facciamo tutti i tecnici della nazionale, si gioca, no? Però Prandelli lascia a casa quello della Juve e non mi ricordo più. Non Vidal, però, non... Non Vidal, eh? Perché, non Vidal perché è cileno, eh? No, Vidal. E chi lascia? Quello sulla destra. Pepe, esatto. Che secondo me ha fatto un buon campionato, anzi, ha sempre giocato in nazionale, ma l'anno in cui ha giocato meglio non lo chiama. E poi non vede Nocerino. Cioè, anche un Nocerino comunque secondo me ha fatto un gran campionato, cioè, ha fatto 9 gol, 10 mi sembra. Mm-hmm. Eppure non, preferisce Montolivo, che secondo me sinceramente Montolivo non è un buon giocatore, ma personalità zero, cioè. Quindi secondo me non grazie, so, Giovanni, grazie. Grazie a lei. Andiamo a Genova da Renzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io non è una domanda, vorrei solo, mi ha colpito come si sono ribaltate le cose. Oggi Buffon direbbe ancora due feriti meglio di un morto? Chi può dirlo? Chi può scrutare nella mente altrui? Non so, non ho idea. Sentiamo nei prossimi giorni. Buffon è uno che la lingua la aziona con piacere, non sempre si assicura prima che ci sia il collegamento, no? A presente quale. E vediamo la prossima volta. Qualcosa già anticipato ieri, vediamo. Certo, per uno che ha appena avuto quell'uscita così infelice, adesso non è semplicissimo aggiustarla dialetticamente, vediamo come se la cava. Gianni Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Dica. Una provocazione. Ehi. Lei parlava prima degli allenatori che sbagliano. Sì. Se Berzot avesse giocato la finale con Antonioni Rotto, come qualcun altro nel 94 ha giocato con Baggio Rotto e avesse perso la finale, come sarebbe finita? Lei la chiama provocazione, sì. Non, cioè lei la rubrica, questa qua la rubrica la voce provocazione. Ma io non so. Dunque, siamo nel, aspetti un attimo che faccio il conto, siamo nel 2012, quindi dal 94 al 2012 sono passati, qualche annetto è passato, insomma. Diciamo che mi aspettavo una domanda un pochino più di attualità. La risposta è questa: Baggio pretese di giocare quella partita, lui è, diciamo, pure forse, senza forse, l'entourage, diciamo che c'era magari anche qualche pressione di sponsor e che Sacchi non trovò la forza di opporsi, però Baggio era in condizione di andare in campo e di giocare, Antonioni nell'82 no, quindi sinceramente, con tutta la comprensione possibile, ma non ho capito la domanda. Marcello Milano, buongiorno. Caro Garanzini, sempre un piacere. Sì, grazie. La saluto. Posso sostituirmi a lei una volta? rispondere a quel signore che ha detto di Nocerino. Nocerino ha giocato bene 4-5 mesi, gli ultimi due mesi nel Milan non stava in piedi. Lei sa che io seguo il Milan come quasi tutta la squadra, quindi non penso che sia la mossa vincente. Comunque, al di là di quello, Garazzini, secondo me sì, è abbastanza offensivo dare questo scontato il 2-2 della Spagna. Io fossi della Spagna mi offenderei, perché secondo me la Spagna ci sono un 3-4 gol di scarto con la Croazia. Quindi secondo me è una cosa che non esiste, poi tutto, poi vedremo, d'accordo. E comunque meritiamo assolutamente di uscire. Per me non sarà neanche facile battere l'Irlanda, perché non aver battuto questa squadra della Croazia, che secondo me è poca roba, è gravissimo, soprattutto al secondo tempo. E volevo anche un suo parere, Ranzini, sulle sostituzioni, che io non condivido, perché tutto sommato Balotelli faceva reparto quando riceveva la palla e avrei sostituito Cassano, che secondo me è stato anche ieri inesistente. Adesso basta, Marcello, perché abbiamo una lunga coda di ascoltatori. Sì, anch'io l'ho già detto prima, avrei tenuto in campo di più Balotelli rispetto a Cassano, ma io sto seduto in poltrona a qualche centinaio di chilometri di distanza e Prandelli invece questa gente ce l'ha lì sotto gli occhi. Non sono assolutamente d'accordo a sentir dire che l'Italia non meriterebbe di andare avanti in questo europeo, perché ha giocato una eccellente partita con la Spagna e un'ottima metà abbondante di partita contro la Croazia. Dice non battere questa Croazia, ci sono anche le partite in cui tutto gli gira storto. Quando crei 6-7 occasioni da gol contro zero, cioè togliamo i due gol segnati, quando crei 6-7 occasioni contro zero, beh, insomma, se non meriti di vincere quella partita, allora lasciamo perdere. Poi certo, il calcio per fortuna non è una scienza esatta, perché sennò sarebbe come quegli altri sport che sono leggermente meno divertenti di questo. E però rimane il fatto che sia un verdetto che non autorizza a dire l'Italia merita di uscire. Prandelli, conoscendo il trap, non ci farà alcun tipo di favore, ha troppo rispetto per la sua professione. Questo è vero, questo è indubbiamente un ritratto di Giovanni Trapattoni. Tra i tanti messaggi che arrivano, ne arriva uno da Vignola, provincia di Modena, firmato Sergio Innocenti, e segnala un torneo giovanile di calcio in quelle zone che in questo periodo purtroppo sono all'attenzione della cronaca. È un torneo giovanile che si apre, che andrà dal 17 al 24 giugno, che insomma, è riservato ai giovani degli anni 95, 96 e 97, ma che soprattutto prevede una raccolta nell'ambito di questo torneo, una raccolta di denaro da versare poi in un conto corrente per aiutare le persone colpite dal terremoto. Nicola Filippone oggi, per ragioni di lavoro, non è riuscito a registrare il suo sembra ieri, e allora chiederei ugualmente alla regia di far partire la sigla. No, non chiedo alla regia di far partire la sigla, ma invece non la facciamo partire, allora vado io. Per il 15 giugno Filippone ha scelto il 15 giugno del 1980 e ha scritto il seguente testo: dopo aver pareggiato a Milano con la Spagna, l'Italia di Berzotto affronta l'Inghilterra a Torino. Per rompere l'equilibrio ci vuole un'azione da manuale. Minuto 78, Antonioni avanza e apre a sinistra per Graziani, che salta il terzino avversario, va sul fondo e cross. Tardelli si inserisce coi tempi giusti, sorprende la difesa inglese e batte sotto misura Shilton. Il discorso qualificazione viene però rimandato alla partita con il Belgio a Roma, che terminerà soltanto 0-0. In finale, a parità di punti e differenza reti, ma per il maggior numero di gol segnati, andrà la rappresentativa rivelazione allenata da Gittis, e cioè dai belgi. Grazie a Nicola Filippone, che ci ricorda anche come il numero di oggi sia il 4, che sono le edizioni a cui ha partecipato Del Piero agli europei 96, 2000, 2004 e 2008. È il giocatore italiano con più convocazioni nella storia della nazionale per gli europei. Stefano Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Non mi trovo molto d'accordo con lei per quanto riguarda Thiago Motta. Lei parlava di qualità, ma in realtà Thiago Motta aveva chiesto di inserirsi spesso le azioni che venivano proposte, a parte quella volta che si è proposto con la Spagna dove ha quasi fatto gol. Poi ho visto due partite abbastanza anonime da parte sua. Volevo un ulteriore commento da parte sua, grazie. Sì, ma insomma, è questione di punti di vista. Non sta facendo un grande europeo Thiago Motta. Secondo me ha fatto la sua parte, forse più di altri, ecco, fino a qui. Non è un giocatore particolarmente appariscente, non è certamente un trascinatore, però non mi sembrava avesse demeritato in maniera particolare. Comunque è stato più utile alla causa lui finché è stato in campo di quanto non sia stato Montolivo dopo, su questo non c'è dubbio. Adesso, dato che molti ascoltatori mi chiedono cosa accadrebbe in caso di 1-1 tra Croazia e Spagna, e cioè dell'identico punteggio e risultato per tutte e tre le partite della classifica avulsa, allora io mi affido a Franco Piattanita perché non sono in grado. E quindi leggo questo breve testo che ha preparato. L'1-1 sarebbe un vero rompicapo. L'Italia passa insieme alla Spagna se batte l'Irlanda con almeno 3 gol di scarto, o con 2 reti di scarto segnandone almeno 4. Ma anche vincendo per 3-1, e cioè lo stesso punteggio ottenuto dalla Croazia contro l'Irlanda, in virtù del posto nel ranking UEFA che è superiore rispetto a quello della Croazia, che è migliore rispetto a quello della Croazia. Mentre se parliamo di pareggi sfavorevoli, ogni pareggio con almeno 4 gol complessivi dall'altro lato, cioè 2-2, 3-3 eccetera eccetera, ci condannerebbe in ogni caso, perché saremmo la squadra con meno gol segnati negli scontri diretti. Quindi allora il 2-2 ci frega sicuro, l'1-1 è un rompicapo. L'1-1 comunque dipenderebbe dalla differenza reti che l'Italia riesce a mettere insieme contro l'Irlanda. Ci sarebbe ancora margine da questo punto di vista. Marco Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Diciamo, volevo il discorso di Motta, io la penso come lei, si vede più quando non c'è quel giocatore che quando c'è. Ecco bravo, ha detto molto bene, molto bene. E poi niente, considerazione generale, penso che la nazione italiana, la squadra è quella lì, cioè né più e né meno, nel senso eravamo contenti per un pareggio con la Spagna, perché purtroppo il calcio italiano anche a livello internazionale negli ultimi 2-3 anni siamo quelli che siamo. Se si considera abbiamo giocato con la difesa della Juventus, che quest'anno è andata bene, ma 2 anni fa era quella che aveva preso più gol di tutti, ci risiamo. Io penso questo, cioè Chiellini è un buonissimo giocatore, bravissimo quando è in forma, quando non è in forma si soffre. Certo. E quindi è andata così. E non so io fino a che punto si possa migliorare cambiando 4-5 giocatori, anche perché non so se Pepe poteva fare la differenza, come qualcuno ha detto, la squadra è questa. Ma io credo che di fenomeni a casa non ne sia rimasti. Poi questo è un ciclo storico di tanti buoni giocatori, ma di pochissimi campioni che svettano. Quei pochi che davvero abbiamo ci sono, perché Buffon c'è, perché Pirlo c'è, perché c'è Marchisio, insomma, cioè, quelli c'è De Rossi, quelli che in nazionale devono starci ci sono. Gli altri sinceramente sono scelte abbondantemente opinabili a parer mio, sia rispetto a quelli esclusi sia rispetto a quelli che invece ci sono. Gianni Mantova, buondì. Sì, buongiorno. Senta, volevo ricordare alcune affermazioni sue e anche dell'intervista di Capello, non so se queste sono possono spiegare in tutta la partita. Tuttavia lei citava che quel cross, quel signore della Croazia, quel calciatore aveva crossato 7 volte, io non ricordo cross dei nostri esterni. Va bene che noi abbiamo attaccanti che non sono formidabili di testa. Chiellini nella Juventus e anche Bonucci, quell'errore da cross non dal fondo ma quasi dalla tre quarti, è un errore che hanno, che qualche altra volta è capitato, per cui evidentemente non lo so, diventa un pochettino più complicato. E poi i due attaccanti, Capello sosteneva nell'intervista Sky che grande talento ma vanno di fioretto, ecco, ha utilizzato un eufemismo. E qui, i due centravanti, i due attaccanti della Croazia schiumavano determinazione anche quando perdevano il pallone. I nostri sono eccessivamente morbidi. Poi, questo sì, in fase di non possesso è sicuro. I nostri due attaccanti sono nettamente più tecnici dei croati, ma fisicamente non li valgono. Perlomeno Cassano non vale quei due. Balotelli li potrebbe valere, anzi li vale atleticamente e fisicamente sul piano della potenza, ma non li vale sul piano del temperamento, nel modo più assoluto. E quindi sì, lì avremmo qualcosa in più potenzialmente, ma in realtà abbiamo qualcosa in meno sul piano del rendimento. Questo immagino che lei stesse sostenendo, e sono completamente d'accordo. Prandelli comunque si consola sostenendo che che la squadra è ancora viva e che l'europeo è ancora aperto. Speriamo abbia ragione lui. Sentiamo ancora un ultimo ascoltatore per oggi, che è Carlo, che ha chiamato da Pavia. Buongiorno. Anzini, buongiorno. Dica lei. Ma secondo lei, escluso tutto, Del Piero al posto di Cassano è una cosa sensata, visto Cassano cosa ha fatto? Ascolti Carlo, risponda lei prima a una mia domanda. Se Conte quest'anno ha vinto un campionato usando Del Piero veramente col contagocce al minimo storico, lei sulla base di questa scelta, lei avrebbe portato Del Piero titolare agli europei? Sì, vabbè, allora il suo è un atto di o è una parentela, oppure è un atto di fede. Che per carità si spiega, perché i delpieristi, i baggisti o baggiani che dir si voglia, i tottiani o tottisti sono così, insomma, cioè per loro la fede nell'idolo viene innanzitutto, ma a dispetto di ogni logica e di ogni riscontro oggettivo. Carlo, grazie anche a lei, grazie a tutti voi che siete intervenuti oggi, grazie in regia a Matteo Comes, in redazione a Franco Piantanida anche per le sue preziose statistiche. L'appuntamento è a domani, buon pomeriggio.